Mi sembra evidente che c'è l'introduzione di leggi speciali e nella fattispecie, per quanto riguarda il governo italiano, addirittura lo sdoganamento di uno strumento, il blocco navale, che è uno strumento proprio di guerra. Per capirci, la situazione che abbiamo davanti a Gaza, quello è un blocco navale, che viene applicato proprio solitamente in condizioni di guerra. E qui è proprio interessante vedere come questa legislazione speciale contro il soccorso in mare prenda proprio dalla guerra le sue mosse, dalla condizione di guerra, quindi questo le definisce ancora di più leggi eccezionali, leggi in stato d'eccezione, perché poi sono leggi ovviamente, ma questo risulta in maniera plastica, sono leggi contro il diritto internazionale, cioè sono leggi che stravolgono la Convenzione di Amburgo sul soccorso in mare, stravolgono la Convenzione di Ginevra, le violano proprio, prevedono una deroga. Ora questo passaggio qui è importante perché dal punto di vista, diciamo, giuridico, le convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto, che riguardano il soccorso, l'obbligo del soccorso in mare e anche la Convenzione di Ginevra sui profughi e rifugiati, chiaramente hanno rango costituzionale, e questa invece è una legge di un governo pro tempore, per cui è meno importante dal punto di vista gerarchico delle leggi, e questo ci offre anche la strada per poter capire come disobbedire a queste imposizioni, ovviamente, che poi vanno nel verso di rendere ancora più tragica la situazione delle persone in movimento, delle donne, gli uomini e i bambini che purtroppo nel Mediterraneo perdono la vita o la perdono dentro i lager libici o nelle deportazioni nel deserto tunisino. Tanto l'Europa quanto l'Italia, quindi la legislazione in materia di immigrazione, si sposta a destra. Ieri in un intervento sul Manifesto tu hai sostenuto che, insomma, si sta applicando quella che è la teoria dell'estrema destra, cioè la remigrazione. Sì, ma penso che abbia a che fare anche col tentativo di questa compagine politica di dirigenti politici europei di rincorrere l'estrema destra, la destra suprematista occidentale, ecco, mettiamola così, ma soprattutto europea, rincorrerla sul piano elettorale. Cioè questi stanno proponendo una versione istituzionale della remigrazione per fare anche da competitor rispetto all'estrema destra, che ne fa un cavallo di battaglia come che tutti conosciamo anche in Italia, insomma, no? Per cui è chiaro che questo spostamento, questa alleanza tra il Partito Popolare Europeo e l'estrema destra nell'approvare questo tipo di patto, no, europeo, per esempio anche per ciò che riguarda i cosiddetti lista di paesi terzi sicuri e per aprire la strada alla possibilità di deportazione, alla possibilità di esternalizzazione addirittura dei centri di detenzione, cioè quindi di questi campi di concentramento che noi dovremmo disseminare in tutto il Mediterraneo, in altri paesi, proprio per affinare la tecnica del respingimento e l'efficacia del respingimento. Ma questa roba qua è, invece che di fronte all'avanzata della destra estrema, no, su questi temi che poi stravolgono il diritto internazionale, ma anche sono imperniati su questa idea xenofoba, razzista, no, dell'arianesimo europeo, di fronte a questo l'Unione Europea, nella sua parte, diciamo, di governo, invece che proporre un'alternativa culturale, politica, valoriale, insegue, perché così diventa competitor elettorale, così cerca di stoppare l'avanzata della destra facendo la destra essa stessa. L'abbiamo già visto tante volte anche in Italia, per cui è una cattiva abitudine tragica, direi, di queste formazioni, no, che si dicono alternative alla destra, ma che poi in realtà fanno la destra. In questi anni, anche prima del governo Meloni, c'è stata una forte criminalizzazione della solidarietà. Come dovrebbero reagire, a tuo avviso, gli antirazzisti? Ma noi dobbiamo, io credo, tutti insieme andare avanti per la nostra strada, cioè non farci neanche troppo distrarre. È ovvio, dobbiamo adattarci a questa guerriglia amministrativa e legislativa che ci attacca, e dobbiamo anche noi organizzarci per rendere effettive le convenzioni internazionali. Ora, quella che riguarda il soccorso in mare, noi dobbiamo organizzarci per aumentare l'attività delle navi del soccorso civile in mare, che sono sostenute queste attività dalla società civile europea, perché ricordo dal 2018 in poi, da quando è iniziato questa guerra contro il soccorso, e allora era ministro degli interni Salvini, e con l'apoteosi dei porti chiusi cosiddetta, le navi del soccorso civile europeo si sono moltiplicate, e noi dobbiamo andare avanti su questa strada, cioè dobbiamo costruire favorire sempre di più la possibilità invece di disobbedire a questa imposizione che vorrebbe il mar Mediterraneo come il mare dei naufragi, cioè che vorrebbe l'omissione di soccorso come condizione permanente. Ecco, noi a questo rispondiamo aumentando quello che stiamo già facendo. Ovviamente si tratterà di lottare, e qui c'è bisogno di una riflessione. Serve non solo la pratica in mare concreta, perché è su quello che poi misuriamo l'applicazione effettiva del diritto internazionale. Il diritto internazionale non è una carta, è una roba che bisogna praticare. Rientriamo invece, se no, nell'uso narrativo del diritto internazionale, come dire, che viene che è stato utilizzato in tutti questi anni anche come alibi per coprire invece dei crimini effettivi, la non applicazione, la non accoglienza, eccetera. Non solo la pratica in mare, ma anche la pratica in terra, e quindi dobbiamo unirci sempre di più e costruire proprio un movimento a terra che sostenga anche questa azione concreta di disobbedienza a leggi ingiuste, appunto, che si basano sulla necrofilia dell'idea che il Mediterraneo sia una fossa comune per i migranti. Ecco, neanche perché tra decreto legge e disegno di legge noi abbiamo davanti uno scenario di leggi speciali che hanno al centro proprio la distruzione del diritto d'asilo, la distruzione dell'obbligo al soccorso, la distruzione del divieto di respingimento di massa. Abbiamo tutte queste cose, e oltre all'introduzione di nuovo di deportazione, carcere per chi non ha commesso alcun reato, eccetera, eccetera, eccetera.